Oggi siamo con Gabriele Molinari, direttore artistico del Jazz Festival Area Metropolitana Bologna, che quest'anno è giunto alla 8ª edizione e andrà in scena in Piazza Grimandi ad Anzio d'Emilia dal 30 agosto al 4 ottobre. Intanto, Gabriele, vogliamo raccontare un pochino l'anima di questo festival? È un festival di jazz con un occhio anche alla beneficenza. Ovviamente, e ai giovani, soprattutto perché? Perché anche se sono bravi, non li vuole nessuno perché non fanno cassetta, cioè un locale noto della città preferisce chiamare uno che, essendo noto, fa riempire i tavoli e non chiamare uno giovane che spesso è molto più bravo di lui, ma non riempie i tavoli. E questa è la cosa peggiore che ci possa essere. Ecco perché dicevo che questo festival è essenzialmente basato sul merito, anche se oggi in Italia dire merito è come chiedere la fattura al fontaniere. Questa è una massima da segnare, è veramente forte ed emblematica di tante cose. In effetti è vero, i locali, ma le stesse organizzazioni, anche più grandi dei locali, spesso vogliono la pappa pronta, cioè il grande nome che ti assicura un certo numero di seguito, di followers, come si dice oggi, e quindi il giovane sul quale si potrebbe investire perché è talentuoso va perennemente in coda, cosa che invece questo festival non fa. E vedo che avete chiamato degli artisti, ognuno dei quali ha una peculiarità. Io sono stato affascinato da alcune cose che hai detto in conferenza. Ad esempio, avremo Michel Godard che suona il basso tuba come un sassofono e che fra l'altro suona il serpentone. Proprio vero. E il serpentone, perché me l'ha fatto vedere nell'ultimo concerto tempo fa, è uno strumento che appunto si chiama serpentone perché ha la fisionomia appunto fra curve e controcurve, ma che non ha nessun tasto, ma ha dei buchi, come se fosse un flauto. E quindi suona in un modo particolare, anche facendo jazz, perché lui suona tutti e due. Ecco, degli altri artisti ne parleremo comunque, li nominiamo velocemente, ne parleremo sia nell'articolo sia in trasmissione. Sono Antonello Salis, Shaun Monteiro, i 110, Sax Bo e Tribalia. Ecco, i 110, hai raccontato prima perché si chiamano 110? Allora, si chiamano 110 perché sempre a proposito di merito abbiamo voluto raggruppare gente che nel loro gruppo il più ignorante ha una laurea magistrale con 110 lode. Questa laurea ce l'ha tutto il quartetto 110, più Giampiero Martirani, laureato con 110 lode anche lui. Gli altri ne hanno anche più di una, che c'è chi ne ha tre, chi ne ha quattro. Però c'è anche un altro requisito per far parte di questo gruppo, un onere. Eh beh, quello di essere bravi, sicuro, sapere suonare, gente che ha vinto concorsi, che sono stati come per esempio il sassofonista Andrea Ferraio, quest'estate è stato in tournée con Vasco Rossi, è stato prima in tournée con gli Stadio, Vignali che fra l'altro da poco ha avuto un incarico come pianoforte jazz conservatorio, che è arrivato terzo al concorso internazionale di Montreux di competizione pianistica jazz, Marcello Molinari che è docente di percussione, anche lui con più di una laurea, laureato sia in percussioni classiche che in percussioni jazz, e poi abbiamo Blake Franchetto che anche lui ha più di una laurea, fra cui una alla Berkeley di Boston, e anche lui con 110 lode. Al di là di tutti questi titoli Sì, accademici assolutamente rispettabili e prestigiosi, mi riferivo al fatto che ognuno dei componenti, la cosa che prima avevi detto, deve accollarsi la direzione artistica musicale di un CD di musica propria. Che era questo l'onere di cui ah, parlavo. ecco, scusa, non avevo capito. Certo, perché mi sembra che la partecipazione di un quartetto così composto, in cui ognuno di loro è un leader, richiede questa partecipazione democratica in cui ogni componente di questo gruppo si accolla alla direzione artistica e musicale di un CD con musiche composte da lui, che viene poi pubblicato, come lo sono stati tutti finora, da Caligola Record, recensiti da Jazz It, Musica Jazz e quant'altro, e viene pubblicato a suo nome. Naturalmente sotto si dice che fa parte del quartetto di Marcello Molinari, però il disco esce a suo nome. Due parole sul primo appuntamento, quello del 30 agosto. 30 agosto, credo che su Antonello Salis sicuramente è un artista che è del 1950, che suona con l'anima, cioè trasferisce ed estrae dallo strumento la sua anima e la riversa sul pubblico, e di questo il pubblico gliene è immensamente grato. Quindi ricordiamo a chi ci ascolta che la cadenza sarà settimanale. Certo, di martedì. Di martedì, ecco, era questo che volevo sapere. Quindi tutti i martedì, sì, dal 30 agosto al 4 ottobre, in Piazza Grimandi ad Anzola Emilia, ci sarà una importante e raffinata, oserei dire, serata del Jazz Festival Area Metropolitana Bologna. Grazie a Gabriele Molinari. Grazie a voi, grazie per l'intervista.